falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. E oggi torniamo nel mondo del calcio raccontandovi però la storia di quei campioni che piacciono a noi, quelli un po' particolari, quelli fuori dal coro, e in questo caso poi racconterò la storia di un mio grande amico personale da quasi 35 anni, sto parlando di Evaristo Beccalossi. Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo. Scusa mezzo, hai visto il mio sinistro? Scusa se insisto, ma mi chiamo Evaristo. Scusa se insisto mezzo. E partiamo dalla nebbia, la nebbia da tagliare a fette, di quella che senti entrare nelle ossa anche se ti copri bene, la nebbia di San Polo, che è un paesino in provincia di Brescia dove il 12 maggio del 56 nasce un bambino di nome Evaristo Giuseppe, come i due nonni. Figlio unico, abita in un casolare in mezzo alla campagna. Il padre Gino è un operaio che conosce la fatica necessaria a guadagnarsi il pane e cerca di insegnare la sua semplice filosofia di vita anche al figlio Evaristo, che ha una sola grande passione, il calcio. E così molto presto i fiori del giardino dei nonni vengono fatti scomparire da questo bambino che si porta sempre dietro il pallone quando corre, quando cammina per strada. Il pallone è sempre lì incollato al suo piede destro, come ogni ragazzino. Anche lui ha un giocatore da imitare, Omar Sivori. L'unico gol della partita, Caroli lancia lungo e Sivori con una tempestiva deviazione di testa infila la rete granata. Un gol davvero fuori classe. Eh sì, Sivori, il cabezone, un giocatore particolare, giocava con i calzettoni abbassati, grandissimo fantasista della Juventus prima, del Napoli dopo. Pensate che Omar Pedrini si chiama Omar proprio in onore di Sivori. Insomma, Evaristo inizia a giocare come Sivori, o comunque si inizia a abbassare i calzettoni per fare come lui, e comincia a giocare contro il muro dell'oratorio. Questo è importante, me l'ha raccontato più volte, perché comincia a giocare sia di destro che di sinistro. Impara a tenere incollato il piede al pallone, se lo porta in giro come sa fare solo lui. Nelle partite all'oratorio puntualmente tutti si arrabbiano per quel nanetto, perché allora era molto basso, che sguscia via nascondendo la palla. Ma soprattutto lui, partito destro, diventa totalmente ambidestro, cosa molto rara nei grandi campioni. All'inizio lui la palla la passa poco, però quando fa vedere di cose capace lascia tutti a bocca aperta, tanto che a 16 anni il giornale di Brescia titola così: probabile esordio del 16enne Beccalossi, campionato di Serie B, Catanzaro Brescia. E sono quei campi in cui in quegli anni era molto pericoloso giocare, perché si menava forte, era difficile portare via dei punti in quegli stadi: Catanzaro, Avellino, Cosenza, Reggio Calabria. Insomma, Luca Pagliari racconta proprio quell'esordio in questo modo nella sua biografia scritta a quattro mani con Beccalossi dal titolo Mi chiamo Evaristo. Il ragazzino toccò il suo primo pallone facendolo passare in maniera irriverente tra le gambe di Gino Maldera, un veterano del campo poco disponibile agli sberleffi. Il tempo di un calcio d'angolo e Maldera si avvicinò al ragazzino dicendogli senza neanche guardarlo: un'altra figura di merda come quella e ti faccio rotolare fino a Soverato. E se fanno qualcosa di cui si devono vergognare, gli uomini piccoli dicono quello è il loro dovere, e pretendono soldi per ogni prestazione. gli uomini piccoli non fanno niente per gusto o per passione. E gli amici cominciano a chiamarlo il Becca, e lui si chiama così. Quando lui mi telefona mi dice: sono il Becca. Dopo la breve apparizione di Catanzaro, lui torna a giocare nella primavera e ritorna in prima squadra 2 anni dopo, nello stadio intitolato a Rigamonti, il difensore bresciano del grande Torino morto nella tragedia di Superga. Comincia a farsi notare perché ha un modo particolare, gestisce la palla giocando a testa alta, capisce il gioco quando gli altri non capiscono, e in questa squadra arriva da Sonnino, in provincia di Latina, un ragazzino secco, allampanato, che ha un gran fiuto del gol, e si chiama Alessandro Altobelli, e in campo tutti lo chiamano Spillo perché è magrissimo e diventa un amico inseparabile di Evaristo Beccalossi. Io penso che l'Inter non ha mai avuto una coppia regista avanzato e un attaccante forte come noi, ma non lo dico perché sono uno sbruffone, ma lo dicono i fatti. Allora, un giocatore come Evaristo l'Inter non l'ha più avuto, perché è il classico numero 10 che faceva assist, dribblava a destra, a sinistra, tirava i rigori, era un uomo completo, un giocatore straordinario che meritava assolutamente la nazionale. Non gliel'hanno data, ma secondo me hanno sbagliato. Evaristo per anni è stato il numero uno del calcio italiano e il numero uno a Milano, la sua carriera meritava molto di più. Il Becca lancia la palla, Spillo la raccoglie, la butta in rete, trovano una grande intesa sul campo, incantano il pubblico bresciano e il Brescia sfiora la promozione in Serie A, e per Evaristo Beccalossi è il momento di posare per l'album delle figurine Panini. Il bambino dell'oratorio lascia il posto a un giovane risoluto che sembra sempre spettinato, però che in campo fa sognare i suoi tifosi. You just call up my name. And you know wherever I am, I'll come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Got a friend. Il Falco e il Gabbiano. Nel 1977 i due compagni di squadra che hanno sfiorato la promozione in Serie A si dividono. Spillo, cioè Alessandro Altobelli, va all'Inter, mentre il Becca, Beccalossi, rimane a Brescia con la sua maglia numero 10, lo stesso numero del suo mito di infanzia, Omar Sivori. E questo perché Altobelli viene ritenuto più pronto, il Becca è considerato un giocatore eccezionale ma discontinuo, troppo individualista, che magari passa poco la palla. Si dice così, non è vero, però sono queste caratteristiche che quando la voce passa di bocca in bocca possono danneggiare. L'Inter lo tiene d'occhio, ma ancora non lo compra, lo lascia ancora giocare in provincia prima di concedergli il palcoscenico della Scala del Calcio. Il controllo del peso era una maledizione che lo perseguitava da sempre e che si sarebbe dovuto sobbarcare tutta la carriera. La buona cucina riusciva sempre a trovare modo di convincerlo, e quando a fine pasto si profilava l'ipotesi del dolce, la trasgressione diventava inevitabile. Palestra e dieta lo rendevano nervoso, e quando a tutto ciò si aggiungeva la corsa senza palla, Evaristo assumeva l'espressione triste di un bambino a cui avevano rubato il giocattolo del cuore. Sì, quando c'era la corsa senza palla, più semplicemente si fermava il Becca, perché non aveva voglia né bisogno di fare allenamento senza palla. Intanto c'è la palestra, la dieta, appunto l'allenamento in solitaria, tutte cose che lui odia, perché lui vuole solo giocare a pallone. Intanto a Brescia il pubblico lo adora e va allo stadio per vedere soprattutto lui. a Milano, però c'è un signore, ha i capelli bianchi, ama l'Inter e sta cercando di costruire una grande squadra. C'è Altobelli, ma c'è Marini, Oriali, Beppe Baresi e Bini. Sta cercando di convincere il Brescia a cedere il suo diamante grezzo, perché Ivanoe Fraizzoli, questo è il nome del signore che ha comprato l'Inter qualche anno prima, è sicuro che Beccalossi è in grado di diventare quella pietra preziosa capace di entrare nella storia del calcio. Dopo una telefonata di Mazzola, Beccalossi firma per l'Inter e Fraizzoli chiude la campagna acquisti. Ora la sua Inter è pronta e alla guida di questa squadra c'è un generale che si chiama Eugenio Bersellini da Borgotaro. Mi chiamo Evaristo. Nessuno nella storia dell'Inter ha mai avuto un nome così particolare. Evaristo Beccalossi, tutto sembra tranne che il nome di un calciatore che dovrà vestire la maglia numero 10 nerazzurra. I campioni si chiamano Mazzola, Rivera, Pelé, Sivori e via dicendo. Evaristo Beccalossi è un nome improbabile, un morbido scioglilingua che scende e che sale, ma nulla di più. Beccalossi è un ragazzo semplice, ha i piedi per terra, al giorno della firma del contratto non si preoccupa di discutere l'ingaggio, e questo gli costerà caro nella vita, perché lì ci sono dei furbacchioni, insomma, dietro alle scrivanie, e i procuratori non ci sono ancora, ma a lui basta essere lì, tra i grandi campioni. Poi c'è Spillo, il suo amico con cui condivide la camera in ritiro, e poi c'è Bersellini, e poi c'è la bilancia con cui Becca deve sempre fare i conti. Bersellini lo mette a dieta ferrea, elimina completamente gli alcolici e anche le sigarette, almeno ufficialmente, perché Beccalossi non ha smesso di fumare un solo giorno della sua vita. Soffre in silenzio, ma l'ambiente che si sta creando è interessante, ricorda un pochino il Manchester di Matt Busby. Fraizzoli è un presidente ma anche un padre che coccola i suoi ragazzi. Io penso che, allora, quando parlo di presidente, poi anche la signora Renata, l'Inter non ha mai avuto altri personaggi così carismatici, così eleganti, così professionali, così sereni. Era una coppia perfetta che voleva bene e amava l'Inter. Quando ha capito che le cose stavano per cambiare, ha mollato a Pellegrini, a malincuore, però ha capito che non era più il suo calcio. Quando va fra i soli deve essere ricordato come uno dei più grandi presidenti. I did burn all the books, and I can still hear his laughter, and I can still hear his song. The man's too big, the man's too strong. Quell'Inter in difesa ci sono Nazareno Canuti, Graziano Bini, che viene soprannominato Brontolo perché si arrabbia sempre con i compagni di squadra, e se la prende con Beccalossi intanto perché non ha nessuna intenzione l'Evaristo di tornare a coprire in difesa. E poi la palla la passa solo quando vuole lui, magari la tiene per un po' e poi esce fuori una magia che lascia tutto lo stadio a bocca aperta. In porta c'è Ivano Bordon, che ogni tanto in ritiro ha una richiesta particolare per il Becca. Allora, possiamo dire che eravamo un gruppo speciale, siamo nati tutti insieme, da Bordon a Canuti, a Bini, Marini, io, Pasinato, Evaristo, Murat. Eravamo un gruppo unito, eravamo un gruppo dove quando si andava in ritiro si passava la maggior parte del tempo insieme in una camera, e quindi Evaristo, sì, perché Ivano era uno che si teneva molto, allora quando doveva fumare gli chiedeva la malborina a Evaristo. E arriviamo alla stagione 79-80 e l'Inter non vince lo scudetto dal 71, sono passati 9 anni. Davanti c'è Altobelli, c'è Muraro col numero 11, allora i numeri andavano dall'1 all'11, e poi ci sono Baresi, Bini, Mozzini, a centrocampo Oriali, e poi c'è Marini, c'è Pasinato, c'è Domenico Caso, ma il numero 10 è inamovibile, Evaristo, Beccalossi. Il 28 ottobre di quell'anno si gioca il derby, piove, tutta la stampa giura che con il campo pesante difficilmente Beccalossi riuscirà a far vedere le sue magie. Prima della partita il campo pesante, i soliti giornalisti, ecco Beccalossi è un giocatore tecnico, sul campo pesante magari non deve giocare, e invece ho fatto due gol. Avendo fatto quel gol lì con la doppietta lì, cioè veramente mi hanno come coccolato, e la cosa bella è stata finita la partita, insomma, essere stato apprezzato dai miei compagni di squadra. E in quella partita il miglior sinistro del campionato segna due gol di destro a Ricky Albertosi, dalla palla a muro dell'oratorio al boato di San Siro. Da quel giorno l'avvocato Peppino Prisco non riuscirà più a parlare di Beccalossi senza che gli si illuminino gli occhi. Beccalossi diventa il figlio prediletto della grande famiglia nerazzurra, e proprio nell'anno in cui le camionette della polizia entrano negli stadi scoppia lo scandalo del Toto Scommesse. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nella puntata di Petrini. L'Inter conquista con due giornate d'anticipo il suo 12° scudetto, pareggiando 2-2 in casa con il Torino, gol di Mozzini, e io ero lì. Ma non abbiamo ancora finito di raccontare i colpi d'ala del Becca. Come ti basta sapere che c'è un animale che sa come si fa? Animale che ti fa dondolare, spinge come te. Animale, e tu lo sai che la notte sono fuori. Falco e il Gabbiano. Stiamo ripercorrendo la carriera di uno dei più grandi numeri 10 del calcio italiano, Evaristo Beccalossi. Siamo arrivati al 1982, l'anno dei mondiali di Spagna. Spillo telefona tutti i giorni al suo amico Becca, che anche quella volta è rimasto a casa. Secondo me ci sono molti allenatori, e col tempo ce ne sono stati sempre di più, che hanno un po' paura che la loro fama venga oscurata da un giocatore che in qualche modo si prenderebbe il palcoscenico. Ricordate quello che è successo a Zola, quello che è successo a Baggio. E così probabilmente anche Berzot, al di là di motivi tecnici che sapeva solo lui, evidentemente Berzot si sentiva un po' messo in pericolo dalla popolarità e anche dal modo di giocare, dall'estro di Beccalossi, e così preferisce una nazionale più disciplinata. Si schiera con 5-6 difensori a partita e, volenti o nolenti, il mondiale lo vince pure. Però noi in quell'anno vogliamo raccontare un episodio quasi tragicomico che ha fatto nascere un aneddoto diventato una leggenda, perché nell'autunno l'Inter affronta in Coppa delle Coppe lo Slovan di Bratislava e vince 2-0, però ai nerazzurri vengono assegnati due rigori. Evaristo Beccalossi va a calciare la prima e anche la seconda volta, e quello che è successo quella sera è diventato oggetto di un celebre monologo di Paolo Rossi, il comico. Comunque i rigori li sbagliano solo quelli che li tirano, e poi le sue grandi giocate sono state così fantastiche che, insomma, non c'è dubbio che Evaristo meriti l'Olimpo. Io, per esempio, ho scritto una canzone che ho dedicato praticamente a lui, anche a Maradona, a Meroni, a Best, però il mio pensiero andava a lui, e la canzone che gli ho dedicato si chiama Il Fantasista. Ogni giocata è diversa dall'altra, questa è la vita per me. Io sono quello da guardare quando ho voglia di giocare, sono schiavo dell'artista che c'è in me. Perché sono un fantasista, faccio quello che vorreste fare voi. uno dei più cari amici di Beccalossi è Lele Oriali, campione del mondo dell'82, oggi è team manager della nazionale ed è stato per anni team manager e direttore generale all'Inter, sto parlando dell'Inter del triplete, è il numero 4 per eccellenza almeno fino all'arrivo di Xavier Zanetti. Buongiorno Lele. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Dici allora, senti, ma com'era giocare con il Becca? C'è questa leggenda che non passava la palla, è vera? No, assolutamente no, questa è una falsità assoluta. No, il Becca intanto cominciamo col dire che è un amico, innanzitutto, quindi è rimasto ancora un amico, nonostante siano passati tantissimi anni, però insomma ci si vede, ci si sente sempre ancora. Ma quello che hai detto non corrisponde assolutamente alla verità. Anzi, no, infatti non devo lo dire che Becca, grazie a lui, voglio dire, mi ha fatto fare anche diversi gol. Quindi era uno dall'ultimo passaggio, era due piedini fatati, quindi che metteva in condizione chiunque di andare a gol. Anche Spillo, per esempio, Altobelli, ha realizzato tantissimi gol proprio per le intuizioni e l'ultimo passaggio del Becca. Quindi non è assolutamente vero quello che hai detto. Eh sì, beh, i suoi piedi fatati hanno fatto fare anche parecchi gol a me, anche se in altri contesti. Comunque, questo suo modo di giocare è stato anche una delle cause della sua esclusione dal giro della nazionale. Forse il momento storico, le scelte tecniche, secondo me c'era anche della incompatibilità caratteriale con Berzo. No, guarda, io non credo, perché io penso comunque che poi alla fine ci va chi merita, secondo me. Quindi il Becca in quei momenti lì era uno ovviamente che non aveva uguali, dico sinceramente, quindi nel suo ruolo, per le qualità che aveva, però un pochino magari mancava di continuità, se vogliamo, no? E di conseguenza non penso che sia solo il fatto che non ci fosse, voglio dire, questo rapporto magari diretto con il tecnico, assolutamente no, perché poi alla fine cioè in nazionale poi veniva chiamato comunque, insomma, chi poi esprimeva durante il campionato un buon gioco. Di conseguenza il Becca, secondo me, poteva sicuramente avere anche una storia in nazionale se avesse avuto un pochino più di convinzione da parte sua. Io te lo dico anche perché lo conosco molto bene, quindi insomma abbiamo fatto tantissimi anni insieme, quindi lui prima, secondo me, di capire dove era e che comunque poteva fare una carriera, secondo me, ancora più luminosa di quella che ha fatto, ci è dovuto passare un pochino di tempo. Senti, oggi tu sei il team manager di questa nazionale e in questo calcio moderno fatto di schemi e anche esasperatamente studiati a tavolino, tu lo convocheresti uno come Beccalossi? Ma guarda, uno come il Becca potrebbe giocare, cioè i giocatori come il Becca sono eterni, assolutamente, perché aveva delle qualità impressionanti, quindi e ti dico, era talmente geniale, no, nelle sue intuizioni, che diventava anche difficile per noi compagni capire poi quello che aveva in mente di fare, perché poi aveva la fortuna di poter comunque giocare con entrambi i piedi, no, e di conseguenza imprevedibile anche per questo motivo, quindi difficile da marcare. Io poi, fra le altre cose, ho avuto anche l'onere e l'onore di marcarlo poi quando andai via dall'Inter, no? E poi anche mi ricordo che lui andò anche alla Sampdoria, se non erro, lo marcai anche lì, quindi difficilissimo, cioè non era uno di grandissimo movimento, no? Però quando andava in possesso di palla erano grossi problemi per chiunque lo marcasse. Secondo me uno dei grandi che avrebbe potuto, ripeto, no, il discorso fatto prima, fare una carriera molto più bella e di più alto livello rispetto a quello che ha fatto. Grazie Lele, e io ti faccio i migliori auguri per il tuo nuovo lavoro in nazionale, magari addirittura per poter arrivare a livelli come quelli che tu hai raggiunto nel 1982. Beh, questo è l'augurio che ci facciamo un po' tutti noi qui, ovviamente, dalla nazionale, ed è quello ovviamente che sperano poi anche i nostri tifosi, quindi insomma lavoriamo anche per quello. Grazie Lele, ciao. Grazie a voi, è stato un piacere. E salutatemi il Becca. Ciao, ciao, grazie. Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Beh sì, dicevo prima Lele degli assist che ho ricevuto dal Becca e poi il piacere che ho avuto di allenarmi alla Pinetina con l'Inter quando lui era all'Inter e bene o male insomma era uno dei grandi leader di quella squadra, mi faceva aggregare alla prima squadra, ovviamente solo negli allenamenti. Con il finire dell'84 Fraizzoli dice addio alla squadra, vende a Pellegrini, è un trauma per tutti, le lacrime di Fraizzoli alla conferenza stampa sono uno dei momenti più tristi, ma non solo per i tifosi nerazzurri, ma per gli amanti di un calcio che stava finendo, tutto stava cambiando. Io ho sempre messo forse troppo cuore, perché sono nato con l'Inter, perché all'Inter sono andato col cuore, e non è solamente il calcio, è un qualche cosa che ieri dicevo anche ai miei consiglieri, che mi è entrato nella vita e non lo saprò mai dimenticare. Scusatemi, ecco, vedete, questa è la mia debolezza, ho lottato sempre per sapere esistere, ma questi impeti del mio animo non ero fatto sicuramente per presiedere la società di calcio, specialmente adesso che questo calcio è molto cambiato, scusatemi. Invece era fatto per allenare questo calcio e adesso ne starà parlando ovunque sia con l'avvocato Prisco, con Facchetti. Ivanoe Fraizzoli è stato un grande presidente che il calcio ricorda, non solo gli interisti. Comunque la vita continua, l'Inter allenata da Radice affronta la Roma fuori casa, la Roma vince 1-0 e Beccalossi viene sostituito con Marini e gioca senza saperlo la sua ultima partita in nerazzurro. Va alla Sampdoria, ma alla Sampdoria c'è Bersellini che non lo fa giocare sempre come una volta, anche perché la Sampdoria in quell'anno deve valorizzare Salsano che è un ragazzino in loro possesso, quindi non è in prestito. È una Sampdoria interessante, ci sono Vialli e Mancini, gioca qualcosa, però deve lottare per un posto da titolare. Ritorna all'Inter che decide di scaricarlo e va a allenarsi a Bobbio e io sono lì con lui, me lo ricordo quel periodo in cui in qualche modo i giocatori senza ingaggio stanno cercando di ritrovare un posto al sole. Io ero lì con Evaristo Beccalossi e poi c'è la sorpresa, va al Monza, 400 milioni di lire pagabili in 2 anni. Un saldo di fine stagione, una svendita per rinnovo locali, l'acerba rottamazione di una fuoriserie troppo ingombrante. Di fronte a quella assurdità, i tifosi di mezza Italia rimasero perplessi. Molti amici gli consigliarono di rifiutare quella ridicola proposta e altri preferirono non pronunciarsi. L'amore per quel pallone che lo accompagnava fin da quando era un bambino ebbe però la meglio su qualsiasi ragionamento. E così Evaristo, pur di tornare a giocare, decise di accettare l'offerta e di vestire la maglia del Monza. In realtà Beccalossi è una vittima di un calcio che sta cambiando, in cui affari, procuratori, giocatori da valorizzare e giocatori invece da escludere diventano più importanti delle stesse qualità di alcuni. Per cui in realtà ha un calo di carriera abbastanza particolare, contando che era un giocatore che era stato chiesto dal Napoli, dal Milan, dalla Lazio, da un sacco di grandi squadre che avrebbero fatto carte false per averlo, però l'Inter proprio per quello non volle darlo ai concorrenti, era non fu trattato bene neanche dall'Inter, ma lasciamo stare. Evaristo torna a Brescia, c'è anche Ivano Bordon. L'ultima figurina che ritrae Evaristo Beccalossi sull'album Panini è addirittura doppia, e al suo fianco c'è un ragazzo sorridente che si chiama Fabrizio Fioretti. Entrambi indossano la maglia biancorossa del Barletta, campionato di Serie B. E poi arriva il ritiro, commentatore sportivo, apparizioni televisive. Nel 2004 l'incontro con il grande campione che ha ispirato la carriera di Beccalossi, l'incontro tra Beccalossi e El Cabezón, Omar Sivori. Perché io ho conosciuto Omar in questo spettacolo a Senigallia, che una sera d'estate, era a luglio così, Pagliari mi invita a Senigallia, che c'è questo spettacolo teatrale in piazza, pieno, praticamente, a parte l'incontro con Omar, che per me è stato... poi sarà scritto nel libro, che quel passaggio libro, che io mi presento e dico io sono uno che ha giocato al calcio, e vedere lei adesso a distanza di anni, lei sappia che io da bambino avevo la sua fotografia in fondo al letto, e non ti dico la risposta perché sì, no, ha detto proprio ma voi che non ti conosco, cioè io tutto timido così, e lui che... Beh, la semplicità dei grandi si vede anche in questi piccoli aneddoti. Io sono contento di averlo visto giocare, ancora più contento di avere conosciuto una grande persona, un grande uomo, di avere avuto e avere ancora il privilegio di essere uno dei suoi migliori amici, così come lui è uno dei miei migliori amici. Ciò nonostante, ho dovuto raccontarlo perché questa è una vita straordinaria che andava raccontata, e adesso noi vi aspettiamo con altre storie. Segnalateci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it o ai nostri siti, pagine Facebook, insomma, se volete mi trovate. Ciao a tutti, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti.